Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, una persona normale, un padre o una madre di una famiglia numerosa che si senta responsabile dei propri figli, o anche un dirigente di un'azienda in crisi, non va a letto la notte senza in testa il pensiero dell'educazione dei propri figli o di come risolvere le difficoltà che arrivano dalla crisi. Com'è possibile che un uomo responsabile del governo di un paese di 60 milioni di persone, in anni di crisi mondiale, la notte a casa sua faccia i festini? È chiaro che non gliene frega niente. È chiaro che il mio voto non l'avrà mai, anche se fosse un genio. Capisco anche che molti tra loro che lo criticano o lo difendono senza rendersi conto di questo fatto, al massimo nella loro vita sono stati responsabili solo dei propri interessi personali, soldi, potere, eccetera. Questi festini danno l'idea, in piccolo, di qualcosa che si era già visto nei castelli medioevali. Ciò che giustifica tutto questo, oggi come allora, è la paura. Oggi si interpretano e giustificano questi fatti guardandoli dal punto di vista della professione, per cui anche il governo di uno stato azienda è assimilato ad una professione e toccare la vita privata di un professionista è considerato un atto deplorevole. Ma una nazione non è solo un'azienda e una persona non è solo un consumatore. Io sono un operaio e non so fino a quando avrò questa fortuna. Molti operai come me che fino a poche settimane fa vedevo tutti i giorni, ora sono stati trasferiti in un'azienda che si trova a 30 chilometri di distanza. Una persona normale per la quale la professione serve per vivere non ha difficoltà a comprendere quello che ho scritto, ma nessuno sui media osa parlarne e lettere come questa vengono cestinate. Con questa unisco la mia voce a tutti quelli che in questi giorni hanno gridato nelle piazze, al coro di chi non vuole tutto ciò e che lo dice. Paolo, Piacenza. Nei confronti della manifestazione No B-Day non sono né a favore né contro. Da riformista mi chiedo quali utilità abbiano queste manifestazioni. Si rischia in piazza di confondere il sintomo, e cioè Berlusconi, per il virus, e cioè la mancanza da parte della politica di un reale programma riformatore. Lasciare fuori la politica e di questo farne un indicatore di qualità, come gli organizzatori hanno fatto, significa dichiarare il fallimento della democrazia rappresentativa. Se ciò era l'intento, la presenza di parlamentari ne conferma il fallimento. Critico il No B-Day perché non crea un'alternativa a Berlusconi. Ne potrebbe farlo perché è generato dal vuoto della politica, dai partiti attualmente vuoti di idee e programmi. I veri colpevoli del malessere del bel paese sono tutti i politici, di destra e di sinistra, che formano la classe dirigente di questo paese. I ragazzi che erano in piazza a Roma sabato scorso non sono depositari di un programma di rinascita del paese, ma sono i testimoni del fallimento della politica. Disgustosi ho trovato tutti i parlamentari presenti in piazza a Roma che, pronti a cercare il consenso, hanno fatto finta di condividere il malessere dei manifestanti. Sono proprio loro i colpevoli del fallimento della politica. Con decenza, avrebbero dovuto, il giorno dopo la manifestazione, presentare dei disegni di legge concreti per cercare di risolvere i problemi dell'Italia. Ragazzi del No B-Day, siete sicuri che l'unico male dell'Italia sia Berlusconi? Siete sicuri che caduto lui la politica rinascerà? Personalmente sono molto più pessimista. Credo che Berlusconi sia il sintomo del collasso del sistema istituzionale, ma credo anche che l'infezione sia l'incapacità dell'intera classe dirigente e la mancanza di cambio generazionale reale. Vi invito a lottare sui giornali, non solo su internet, proponendo soluzioni concrete ed economicamente attuabili. Vi invito a partecipare alla vita di partito, anche quando vi fanno ribrezzo gli attuali dirigenti, per infondere in queste maleodoranti stanze delle nuove idee. Vi invito a non abbandonare la democrazia rappresentativa, non perché questa sia perfetta, ma perché è l'unico sistema, per ora trovato, che garantisca un minimo di libertà e democrazia. Massimiliano. Il tortellino, purtroppo, non tutti lo preparano come si deve. Nella Guelfa Bologna si custodisce il dogma. Lombo di maiale, prosciutto, mortadella, parmigiano reggiano. Ma già quegli eretici ghibellini dei modenesi violano la ricetta con sorprendente disinvoltura. Lombo di maiale o altre carni? Parmigiano stagionato 3 anni o semplicemente 18 mesi? C'è da fremere al pensiero della nostra secchia rapita, prigioniera da 500 anni nelle mani di quei barbari. Altrove dilaga l'anarchia. I romagnoli ci mettono carne di manzo. Le menti dei villici ferraresi, ottenebrate dalla nebbia che li opprime d'inverno e dalle zanzare che li dissanguano d'estate, giungono alla perversione di metterci la zucca. Ma da fuori, fra i mille insulti a Sua Maestà il Tortellino, uno solo si riconosce, quello scuro al tartufo. Tutti gli altri sono uguali. Pensavo a queste questioni sentendo alcuni interventi sull'incredibile caso Balotelli e mi chiedevo quanti nella nostra società sono a conoscenza dell'infondatezza scientifica del razzismo. Quanti sanno che gli esseri umani, come i tortellini, sono fatti con ricette, patrimonio genetico, i cui ingredienti sono solo in minima parte visibili dall'esterno, fenotipo. Siamo tutti biologicamente identici al 99,7%. Il genere umano è una specie giovane, con una bassissima variabilità genetica, circostanza confermata dal fatto che tutti noi siamo interfertili, il che è una banalità per il senso comune, ma non lo è affatto dal punto di vista scientifico. Il restante 0,3% della nostra ricetta coinvolge differenze che riguardano per la maggior parte il ripieno, cioè il genotipo, e solo in minima parte la sfoglia, cioè il fenotipo. Mi chiedo se la cultura scientifica di questo paese consente ai suoi abitanti di rendersi conto che un pregiudizio basato sul colore della pelle non ha maggior fondamento scientifico di uno basato su altre differenze che distinguono le popolazioni umane e che non si vedono dall'esterno. In conclusione, o troviamo un nome a ciascun singolo tortellino, o ci mettiamo il cuore in pace e ci rassegniamo all'idea che i tortellini si assomigliano un po' tutti, che nessuno usurpa questo nome ed è in fondo questione di gusti, non avendo senso fare distinzioni. Marco. In alcuni lavori gli stranieri prevalgono perché costano meno, fanno poche storie, venendo da realtà ben peggiori delle nostre, sono più ricattabili e molte volte, come avviene nel mio settore, hanno una professionalità scadente ma adeguata all'offerta che l'azienda propone. Io sono un cuoco e ormai non trovo più lavoro. Ero specializzato nella ristorazione scolastica, aziendale e sanitaria, tutti i settori che sono in crisi e che quindi possono affidare il lavoro a personale non specializzato. Tanto i bimbi, chi se ne frega come mangiano. Mauro. Caro direttore, l'intervento del Papa sull'intossicazione che può provocare l'informazione ha suscitato paradossalmente commenti quasi tutti positivi, proprio da parte dei responsabili degli stessi mezzi di informazione. Allora c'è da aspettarsi che non cambi niente, che i giornali, le radio e le televisioni continuino a dedicare larghi spazi all'analisi compiaciuta dei più terribili episodi di cronaca nera e che continuino a guardare dal buco della serratura per spiare la vita privata dei politici e degli uomini di spettacolo e con tanti grandi fratelli che faranno diventare spettacolo anche la vita quotidiana. E alla fine l'informazione cattiva prenderà inesorabilmente sempre più il posto di quella buona. Antonio. Caro Antonio, il richiamo di Benedetto XVI del giorno dell'Immacolata ha indubbiamente colpito per la sua durezza e per la sua drastica condanna di come i mezzi di comunicazione vengono utilizzati. Ma non c'è stata solo la critica. Il Papa ha anche voluto rendere omaggio a tutti coloro che in silenzio, con i fatti, si sforzano di praticare la legge dell'amore che manda avanti il mondo e che non fanno notizia. È questa la vera sfida dei mezzi di comunicazione, così come quella dei lettori dei giornali, di chi ascolta la radio, di chi si siede davanti alla televisione. L'informazione è una scelta quotidiana a cui tutti devono essere partecipi con responsabilità, nella convinzione che giornali, radio e televisioni sono solo strumenti che possono aiutare a consolidare i valori della persona e della società, ma che possono ugualmente abituare alla violenza, all'egoismo, allo sfruttamento. Mantenere una volontà di scelta è quindi fondamentale, nel rispetto delle idee di ciascuno, ma con l'apertura a discutere tutto quanto può migliorare questa nostra società che troppo spesso è basata sull'individualismo e sullo scontro. a lungo può diventare monotono, ma permette di divertirsi osservando come certe situazioni abbiano poi, nel tempo, sbocchi veramente inaspettati. Guardando la dedizione delle signore ucraine verso mia suocera inferma, pensavo che avrei dovuto portare sulla tomba di Stalin un bel mazzo di fiori per ringraziarlo di aver pensato a noi. Infatti, senza il cupo comunismo impersonato da Stalin e dai suoi epigoni che ci hanno spaventato per 70 anni, intere generazioni di europei non godrebbero di una vecchiaia serena e tutto sommato meno costosa nelle loro case, assistiti da donne che affrontano una vita di sacrificio totale per dare ai loro figli gli agi che noi occidentali godiamo da 60 anni. Sento parlare del processo breve. E non posso fare a meno di pensare che per scuotere l'inerzia, per non dire di peggio, dei nostri magistrati, ci vuole il polverone di Berlusconi con i suoi processi e le sue leggi ad personam. Alla faccia del procedimento breve, direbbe Totò. 6 anni. Laura. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.